Buonasera, buonasera a tutti, siamo Ethno Chic. Buonasera a tutti, questa è Ethno Chic, siamo di nuovo in diretta, anzi per la prima volta in diretta con Ethno Chic. Buonasera ad ascoltatori e ascoltatrici, non so perché ma la nostra sigla non è partita, ma va bene, ci presentiamo così. Buonasera Vladimiro, buonasera Azul. Buonasera. Buonasera. E questa serata una trasmissione tutta con voci femminile dall'America Latina. E partiamo con un omaggio a Violeta Parra, che sarà un po' la personalità che introdurrà questa trasmissione, con questa Cantores que reflexionan, che è una delle ultime composizioni che ha scritto nel 1967. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? Program actor. That's not us, Lock. We're from Locker. Needs it. Here from the studios. I'm not fun. This is where a news transmitted in some. It's coming to you over the. Where are they hiding? Where are they hiding? Where are they hiding? De la ansiedad, medita un astro en alta voz, gime y se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió, quemas el árbol del amor, deja cenizas al pasar. Prisionero del placer y siervo de la vanidad, busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies. Gloria le tiende terca red y le aprisiona el corazón, en los silencios de su voz él se va ahogando sin querer. La candileja artificial le ha encandilado la razón, dale tu mano amigo sol en su tremenda oscuridad. Digo yo, no se consigue responder, van a la abeja sin su miel, van a la voz sin segador. ¿Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven? 30 denarios y una cruz, responde el eco de Israel. ¿De dónde viene tu mentir y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír. Su conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. Cuando del fondo de su ser, de entendimiento así le habló, un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel. Oye su canto un asadón, que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz, y a los raudales de su voz, en su divina comprensión. Luce brutavan del canto. Ed eccoci ancora qua. Abbiamo svelato l'arcano, gentili ascoltatori e ascoltatrici. Semplicemente avete ascoltato inizialmente non tanto la nostra sigla, non tanto Violeta Parra, ma i Cabaret Voltaire. Che cacchio ci azzeccano i Cabaret Voltaire con una trasmissione come Ethno Chic? Niente, ma il trucco è proprio lì. Il problema è che il nostro supporto digitale era stato impunemente estratto, anche il povero nostro software, Winamp, diciamolo, stiamo suonando in digitale, e non poteva suonare alcunché perché non sapeva più dove pescare i dati. Tutto qua. Sì, il problema è che io tecnologicamente si sa che non sono rimasto molto indietro. Siamo i tecnovillani. Con la puntina. E comunque, niente, cari ascoltatori, noi proseguiamo qui su Radio Città del Capo, 94.7, 96.250, e ormai siamo entrati un po' nel clou della nostra trasmissione, dell'argomento della nostra trasmissione. E, Violeta Parra, di cui quest'anno sono i 100 anni dalla nascita, folclorista e ricercatrice dei canti popolari, in particolare presso queste popolazioni mapuche che hanno mantenuto e hanno resistito al colonialismo sapendo mantenere anche le loro tradizioni. E non era l'unica personalità che si occupava, femminile, che si occupava di recuperare e valorizzare queste tradizioni popolari. Un'altra personalità di quell'epoca è Margo Loyola, che anche lei riproponeva queste musiche. Adesso la sentiamo proprio a riproporre un rituale Mapuche. No, aspetta, Vladimir, ma i Mapuche chi sono? I Mapuche è una popolazione indios del Cile che ha resistito per secoli al colonialismo spagnolo. Addirittura nei loro territori gli spagnoli non sono mai riusciti a entrare perché sono stati sempre sconfitti, e ancora oggi lottano, insomma, per rivendicare i loro diritti, insomma. E quindi sentiamo questa Maci di Margo Loyola. Questo era questo rituale della Maci, è appunto la signora, insomma, quella che fa questo rituale, che è molto segreto. Infatti non a caso questo è ricantato e riprodotto in modo stile ricalcare quasi questa cerimonia, che appunto di solito è segreta, quindi difficilmente troveremo delle registrazioni. Come hanno fatto a capirle? Sono andate perché, vabbè, gli incontri, cioè, chiaramente è il lavoro un po' di chi va a fare ricerca, entrare un po' in contatto e in fiducia con le persone, un po' quando venivano registrati i lamenti, eccetera. E naturalmente sta poi a chi fa le ricerche di essere il più discreto possibile e di avere un rapporto, insomma, corretto e leale verso chi sta davanti, insomma, e magari non piazzargli il microfono in testa mentre questo sta piangendo la morte di qualche caro. E da qui iniziamo un viaggio soprattutto nel cono sur dell'America Latina, ma spiazzeremo su come queste tradizioni vengono un po' rivisitate e riproposte da vari personaggi che, diciamo, che dagli anni 70 fino ad oggi, quindi avremo grandi figure del passato, ma anche figure, insomma, nuove generazioni, insomma, cantanti che sono nate negli anni 70. E adesso la prossima cantante invece è Mercedes Sosa, che non ha bisogno di molte presentazioni e che ci presenta uno dei suoi molti brani ispirati appunto a una musica a ritmi tradizionali dell'Argentina, questo chamamé, questa viglierita, che parla appunto, descrive la realtà sociale dell'Argentina. Villerita, rancho de lata, cartón y chapa pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado recién teñido que ayer fue negro, tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplido, vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño, vuela, vuela soñando tener un día como todas, la dicha tan merecida. Las revistas le dan envidia, mala semilla para la perdida. Vuela, vuela bien alta sus ambiciones, sueña y a la subida las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones. Y cobijo sin privación. Desnuda, tu cuerpo helado, desvergonzado bajo el tapado y enamorado por 2 centavos, el mismo juez que te ha condenado, supermercado, venta de besos, placer y goces por unos pesos. De ventanas antes del puente, muy poca luz panamericana. Vuela, vuela bien alto que no te alcancen, vuela que no te alcancen buitres de barro, esos que solamente tiran el carro 8:40. Hay que borrarlo. Vuela, vuela bien alta, paloma herida. Vuela, vuela si quieres cambiar de vida. Vuela antes que la noche cubra tus días. Paloma mía, paloma herida. Vuela, vuela bien alto que no te alcance, vuela que no te alcancen buitres de barro, esos que solamente tiran el carro 8:40, hay que borrarlos, paloma mía, palomerita. Mi villerita, paloma mia. Buonasera, sono le 21:45, siamo su Radio Città del Capo con Ethno Chic, tutto al femminile oggi, eh? Sì, esattamente. E anche le prossime, il prossimo brano è un brano che viene dall'Argentina, però stavolta di due ragazze che sono tuttora, vivono a Buenos Aires, e che hanno fatto questa, hanno rivisitato questo brano infantile, questa canzone infantile che si chiama Canción para bailar a la luna. E loro si chiamano Las Magdalenas e ve le facciamo ascoltare. Safran. Quien la pesque con una canita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Molto bello questo brano di Las Magdalenas. Eh sì, è un brano modernizzato che abbiamo scoperto e che sono due ragazzi di Buenos Aires che utilizzano strumenti folclorici appunto della tradizione andina, anche modalità della tradizione andina, però in chiave moderna, con un arrangiamento molto delicato e curato. Beh, si vede, si sente che sono un gruppo metropolitano. Mi sa che ormai in Sud America, nelle metropoli, ma forse insomma, nelle città sudamericane, le commistioni siano tante, arrivi un po' di tutto. Eh sì, c'è una forte commistione e sono in grado di tirare fuori da questi linguaggi musicali tradizionali all'America Latina dei brani comunque godibili, moderni e soprattutto con una bella forza vitale. Così come le due ragazze che sentiamo adesso con questa passos sono Charo Bogarin dall'Argentina e Malena Muyala dall'Uruguay. Ah. que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labrá, las huellas del destino, pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos deja. Pendiendo de la nada, hojas de una rama cortada, nada será lo que has vivido, todo para entrar al olvido, pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia, dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso, pasará, pasará, pasa, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que lo pasa, pasa el tren de la hora. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, pasa, entra y no te quedes, pasará lo que pasó. Apagado solo, llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria, pasará, pasará. Si llega la luz de lo deseado, barre lo tuyo y lo que has dado, finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida, pasará, pasará. Pasa manos, pasa manos, pasa tiempo, pasa, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo de E con questa clave è finita questa passos, Malena Muyala e Charo Bogarin. E lasciamo la voce di due belle ragazze alla voce di due belle donne, proprio intensità che ti colpisce proprio. Eh sì, due giovani donne con una voce calda e matura. Molto radiofonica anche, sì. Che ricorda magari qualche cantante nostrana degli anni 60. Eh sì, anche se appunto è qualcosa dei nostri giorni. E adesso un po' di musica strumentale, questa compositrice uruguaya Mariana Ingold con Germán Prentke al violoncello per questo candombe, che il candombe è una musica di origine africana che ha mantenuto la sua vitalità, perché appunto viene suonato a Montevideo durante il carnevale, fra l'altro ricordo dei colleghi al DAMS che fecero dei lavori di ricerca proprio su questa tradizione. Quindi vi facciamo ascoltare questo strumentale Candombe Vence Iocho di Mariana Ingold. Sì, molta musica di carnevale, proprio allegra. Eh sì, peccato essere così distanti e non poter assistere a tutte, insomma, queste occasioni di festa che che appunto poi solo la musica però e la radio ci può permettere di avvicinare le distanze. Sì, non sono mai stato in Sud America, però sentire questa musica mi ci fa spostare con le orecchie perlomeno. Spero anche voi, gentili ascoltatori e ascoltatrici. Visto. Almeno ci ha fatto scaldare in questo momento, visto che fuori fa freddo. E nel Rio della Plata mi sa che adesso fa caldo, dico di bene. Sicuro. L'estate in qualche modo torna da noi. E questo è il momento di un tango. Un tango classico cantato da Susana Rinaldi, Desde el Alma. Te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Es el que más nos hiere, es el que duele más. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Radio Città del Capo 94 7 96 250, oppure in streaming Ethno Chic. Dicevo prima, il tango è bello perché si somiglia molto con i valzer, e poi dopo lei ha mischiato anche un valzer e poi alla fine anche un strumentale, non so cosa era, un... Sì, una chiusa strumentale, sì. Con il bandoneon, con tutta l'orchestrina. Che è una specie di fisarmonica, dico esatto, bene? Sì, esatto, sì. Giusto per spiegarlo a noi, ai nostri ascoltatori soprattutto. Sì, praticamente è sempre una fisarmonica un po' particolare, insomma. Siamo sempre italiani e spagnoli che emigravamo da quelle parti. Sì, oppure anche comunità ebraiche, per esempio, che portavano anche ritmi e melodie klezmer, insomma, tedeschi. La famosa bandonica all'origine era in Germania e poi è diventata bandoneon. E adesso ci spostiamo in Messico, la Catrina di Eugenio León, che ci racconta di questa figura, di questa morte raffigurata, vestita come un'aristocratica europea con un grosso cappello in testa, e che era un po' una satira, che è un personaggio poi diventato popolare, è entrato poi nella traduzione, e qui sentiamo Eugenia Leon che ci canta questa Catrina. Hay calavera Catrina en tu sombrero adornado. Se nota que estoy marcado y hasta el cuero se me enchina. Es decir, ya pido esquina de tu acechanza constante, de tu decisión tajante, de tu poder infernal. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. No me permitas que cante porque te alejo, maldita. Y en cada palabra escrita más fortalezco mi aguante. No me importa qué elegante te vistas para traerme. Puede ser que el no tenerme te produzca siempre enfado. En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a verme. En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a verme. Lo juro, no vas a verme, hoy por lo menos lo juro. No entraré hoy en ese oscuro cajón con mi cuerpo inerme. Después ya vas a vencerme, aunque no quiera calaca. Me clavarás esa estaca que se le clava al vampiro. Pero la pata no estiro, mejor retírate flaca. Pero hoy la pata no estiro, mejor retírate flaca. Hay calavera Catrina en tu sombrero adornado. Se nota que estoy marcado y hasta el cuero se me enchina. Es decir, ya pido esquina de tu acechanza constante, de tu decisión tajante, de tu poder infernal. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Beh, sembrava quasi ascoltare un piccolo brano di Pierino il Lupo di Prokofiev. Eh sì, un arrangiamento camaristico per questo brano tradizionale messicano, La Catrina. Da poco che ho capito del mio spagnolo molto arrugginito, mi sa che racconta proprio la storia di Catrina, se non mi sbaglio. Ci presenta questo personaggio che invece è Merquén, gruppo cileno che è stato da poco, lo scorso agosto-settembre, qui in tournée in Italia, anche a Bologna, ne fa una rivisitazione di questa figura della Catrina, ripensando un po' anche alla propria storia, insomma. I Merquén, La Catrina. Me salta il corazón de pena y alegría cuando entona una canción a lo lejos la Catrina. Y le responden los versos, fiestados y bien floridos, brindando por lo vivido, mis muertos y otros muertos que hoy seguimos recordando. Bien floridos mis muertos entonan la canción que hace saltar de alegría y pena a mi corazón. Y a lo lejos la Catrina, brindando por lo fiestado, responde los versos calmos de mis muertos y otros muertos que hoy seguimos recordando. Que hoy seguimos recordando. noche brindaremos vivos muertos alegra. Que reviente la canción, la memoria de mi sangre. Reguen todos sus guitarras y caranas por las calles, por la vida que vivieron, por la historia que legaron. Esta noche brindaremos vivos muertos alegrados. Y mientras la joda sigue, nos esperan celebrando a que sigamos la fiesta junto a ellos allá abajo. Esquina un diablo gira celebrando enfiestado. Corre vino, sale ron, uva, hierba, chicha y carne. Hay mil niños angelitos correteando en todas partes. Se ilumina la velada y se encienden corazones. Porque el son de copa y brindis hoy mis muertos me responden. Por la vida que vivieron, por la historia que alegaron. Esta noche brindaremos vivos muertos alegrados. Armando puesto, mi abuela escucha, mi abuelo lindo. Escucha, escucha las dos Alicias este versito que voy cantando. Cantando historias que comparte mi tío Arturo volando fue. La Cristinita llegó cantando a reencontrarse con su viejita. Milena linda sonrisa amplia llega a la fiesta batiendo palmas. Mi tío Alberto y mi abuela Norma van a la ronda que ya se forma. Sentan el piano está mi maestra Gloria y Nostrosa pa' que se sepa. Nico y Cristóbal en la cocina le lavan lana a la tía Ina. Yo la toca una cueca, Violeta y Víctor la Catrina oficiando vela, vino y comida para la fiesta. Me salta el corazón de pena y alegría cuando entono una canción a lo lejos la Catrina y le responden los versos festivos y bien floreados, brindando por lo pasado, mis muertos y otros muertos que hoy seguimos recordando. Merken dal Cile, la Catrina. Ci ricordava qualcosa di noi un po' più vicino, distante ma vicino, non così distante come il Cile, dico bene, Azul? Sì, mi tornava un po' la pizzica, però sto zitta che forse meglio. La pizzica, diciamo che, vabbè, no, in realtà sono ritmi proprio cileni e che sostanzialmente poi si sono mischiati con le tradizioni degli spagnoli. È la stessa cosa nel sud Italia dove sono stati gli spagnoli, poi tenendo conto che la pizzica che conosciamo noi è un po' una reinvenzione di qualcosa che poi è stato mischiato con le tarantelle eccetera sì. eccetera, e quindi sostanzialmente un po' il ritmo saltato che è rimasto ancora nella tradizione del sud Italia ma più sul saltarello e sulla tarantella come pratica concreta. Un altro ascolto dall'Uruguay, Stella Magnone, Novio della Soledad. Ay del que fuera un día novio de la soledad, después de este amor supremo, ¿a quién amará? Ay del que fuera un día novio de la soledad, después de este amor supremo, ¿a quién amará? ¿Quién sin dar estrecha sin abrazar, quien de un vacío tesoro hace que se pida más, que araña invisible y muda, carcelera singular, teje sus rejas abiertas y el cautivo no se va. Ay del que fuera un día novio de la soledad, después de este amor supremo, ¿a quién amará? Salabones golpean con rumor de eternidad y el corazón solitario le responde más allá más de sí mismo, más allá del propio mal, amorosamente solo con su madre soledad. Amor supremo, ¿a quién amará? racimos de perlas vivas al pasajero le dan. Por los caminos del mundo cruza la marcha triunfal. Evoe, siga la fiesta que el cautivo no se va. E questa era Estela Magnone, anche lei dall'Uruguay. Per l'Uruguay abbiamo voluto metterci un po', come dire, un'attenzione particolare, perché è un paese molto piccolino ma molto vivace, che spesso è trascurato. Ci sono le figure molto importanti. A musica ricordiamo Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, che ci ha lasciato da poco. E poi come la poetessa Idea Vilarigno, Mario Benedetti, insomma, personaggi che magari in Italia non sono molto conosciuti, sono conosciuti solo da una piccola fascia di persone, che però hanno lasciato delle pagine molto importanti. Per niente conosciuti, ci fa piacere farveli ascoltare, anche perché è una radio locale, ma comunque indipendente come Radio Stare il Capo, se non fa queste cose, insomma, giusto per distinguersi e andare a cercare musiche che altre radio non fanno, anche non solo non conosciute, ma per far sentire altro. E di questo altro adesso abbiamo Maya Castro, un'altra giovane cantante, con questa pausa. Despacito pa no llamar la atención y arranca por la bajada pateando lo que dejó. Sabe que de ese amor solo le queda rencor y un recuerdo tibio que se le enfrió. La botella su hermana, el destino su condena, la vida le quedó en pausa. Sabe que no hay dolor que dure más de 10 pasos. Se endereza el espinazo y sale contrarreloj. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Se levanta despacito pa no llamar la atención y arranca por la bajada dejando pegar el sol. Sabe que no hay dolor que dure más de 10 pasos. Se endereza el espinazo y sale contrarreloj. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Etno Chic, questa era Maya Castro, pausa. Ci avviamo verso la conclusione, ma ancora vogliamo farvi sentire Laura Canoura, che è sempre dall'Uruguay, una cantante già attiva negli anni 70-80, con questa, ve la facciamo sentire cantando Lugar de mi. che è un disco degli anni 80. Palabra que no sé de dónde me empuja este amor, me arrastra hasta que calle lo trajo, qué manos podía cuando golpeó, cuando le abrí. No sé cómo voy a llamarte, de tu adentro a mí no hay alrededor, no hay lluvia, planeta, naufragio, delirio, naranja que no seas vos. Palabra que no sé dónde te asombro es sentirme en tu abrazo, recobrar la piel desde tus orillas, saber que detrás del beso nos vigila intacto aún todo el amor. Y aunque aprendemos que lo lejos también puede ser error de los ojos, no hay cerca más cerca que tu cercanía con el error tocándome. Palabra que no sé dónde te preguntare. 22-24 minuti primi. Beh, abbiamo anche degli ospiti. Abbiamo qua con noi Denis, Irene, Marta, Leo, Tommy. Ciao ragazzi, qua in diretta con noi. Ragazzi, siete in diretta, grazie per essere venuti al nostro esordio. Ciao. Ciao. Hola. Che ne dite di questa prima nostro esordio radiofonico in diretta per Ethno Chic? Conoscevate qualcosa di queste canzoni? Conoscevate qualche brano, qualcosa? L'avete mai ascoltato? Grazie per averci ospitato prima di tutto. No, sono pezzi nuovi, tutti nuovi per noi, e quindi forse li apprezziamo anche di più. Perfetto. Vi ringraziamo ancora di essere presenti qua con noi, vi salutiamo. E invitiamo anche i nostri altri ascoltatori, se vogliono venire in radio, ricordiamo a trovarci, ricordatevi che saremo qui in diretta tutti i mercoledì. Alle 21.30. Alle 21.30. E ora vi salutiamo con un brano di Rossana Taddei, Luz que llega, una giovane ragazza che appunto vi guiderà verso il GR delle 22.30. Vi salutiamo, Vladimiro, Azul e Babe, e grazie della compagnia. Buonanotte a grazie, tutti. Buonanotte. Ciao. Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción. Voy dando los pasos, a las llevo corazón. Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción. Voy dando los pasos, a las llevo corazón. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero va prendida tu camisa, mi botón. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, y canté, y canté, y canté. Caminando ya no veo más el sol. Dejó todo rojo el cielo puesto, qué color. Rayos que en mis ojos encandilan emoción. Pienso, solo siento tu camisa, vos y yo. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, canté, y canté, y canté. Sigo caminando, ahora siento abajo el mar de mis pies descalzos que no dejan de bailar. La canción más linda que una vez pude cantar, y ahora solo quedan los acordes nada más. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, canté, y canté, y canté. Lai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.